potente Giove, al cui cenno si muove il mar, la terra, il ciel, di cui ripieno è l'universo, e dalla man di cui pende d'ogni cagione e d'ogni evento la connessa catena. Questa che a te si svela, sacra vittima accogli, e sai funesti che ti splendono in man, folgori arresti.